Sura dei frodatori, capitolo 83esimo del Sublime Corano, è l'ultima delle rivelazioni meccane, discesa dopo la Sura 29, la Sura del Ragno, ed è costituita da 36 ayat. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Guai a coloro che frodano, che quando devono avere pretendono tutto quanto loro spetta, mentre quando devono dare frodano sul peso e la misura. Non pensano quelli là che saranno fatti rivivere in un giorno terribile, il giorno nel quale gli uomini saranno in presenza del Signore dell'universo? Niente affatto. In verità, l'elenco nominativo dei malfattori si trova certamente in Sijjin. Cosa ti spiegherà cos'è Sijjin? È un registro scritto. Guai quel giorno ai contestatori della verità, i quali adesso smentiscono la verità del giorno del giudizio, però non la smentisce la verità del giorno del giudizio se non ogni delinquente malfattore. Quando gli vengono recitati i nostri segni, egli dice: sono storie degli antichi. Niente affatto. Ciò che essi pensano renderà i loro cuori vieppiù insensibili alla verità. Niente affatto. In verità, essi quel giorno saranno separati, certamente, con un sipario dal loro Signore. Essi bruceranno certamente nel fuoco dell'inferno, e sarà detto loro: questo fuoco infernale è ciò di cui negavate la verità. Niente affatto. In verità, la lista dei pii è certamente in Illiyin. Cosa ti spiegherà cos'è Illiyin? È un registro scritto, testimoniato dai Mukarrabun, gli approssimati ad Allah. In verità, i pii saranno di certo nel paradiso delle delizie, dove adagiati su comodi divani si guarderanno attorno, e tu leggerai sui loro volti la gioia del paradiso. Ivi saranno dissetati con vino squisito sigillato, e il suo sigillo sarà muschio. Gareggino per questo i gareggianti. Quel vino paradisiaco sarà allungato con tasnim, il liquido che sgorga da una fonte dove bevono i mukarrabun. In verità, coloro che rifiutano di credere deridono i credenti, e quando passano vicino a loro ammiccano l'un l'altro, e quando tornano in famiglia ci tornano giulivi. Quando li vedono dicono: in verità quelli là sono proprio in errore, benché non abbiano avuto l'incarico di essere loro custodi. Quel giorno invece saranno i credenti a ridere di coloro i quali rifiutarono di credere. Essi, i credenti, stando comodamente distesi su divani, si guarderanno intorno. Non saranno forse ricompensati da Allah per quello che facevano quelli che rifiutarono di credere?